alta voce. Elia Shilton legge Le linee d'ombra dal libro The Shadow Lines di Amitav Ghosh. Copyright 1988. Tutti i diritti riservati. Traduzione di Anna Natotti. Quindicesima puntata. Quando uscii dal bagno della casa di May, trovai sul tavolo un piatto di uova fritte e pane tostato e un bicchiere di succo d'arancia. Avevo molta fame. Mi ricordai che la sera prima non avevo mangiato nulla. May era ancora occupata in cucina, così rimasi in piedi dietro la sedia e attesi. «Non mi aspettare, mangia!» gridò. «Devi essere affamato dopo tutti i tuoi esercizi!» «E tu?» chiesi timidamente. «Non fai colazione?» «Al tuo posto non mi preoccuperei. Se fossi in te mi butterei sul pane tostato e sulle uova prima che diventino fredde e appiccicose. Il pane è quella schifezza di pane integrale che ci dicono di mangiare oggigiorno. Il guaio è che si trasforma in pasta di pane se lasciato a se stesso per più di un minuto». Senza una parola mi sedetti e cominciai a mangiare. Ben presto terminò di riordinare i piatti e rimasi in piedi appoggiata alla parete guardandomi mentre mangiavo. «Altro pane tostato?» disse. «Sì», dissi, «ma tu non mangi proprio niente». Me ne porse un'altra fetta scuotendo la testa. «Hai già fatto colazione?» «No». «E allora?» Ero confuso. «Oggi non farò colazione». «Perché?» rise. «Evidentemente a Calcutta non conoscete l'antico proverbio sulla curiosità e i gatti. La mia risposta alla tua domanda è: oggi non intendo fare colazione perché è sabato». «Che cosa significa?» chiesi perplesso. «Non mangio mai nulla il sabato. È il mio giorno di digiuno», direste voi. «Giorno di digiuno? Vuoi dire che digiuni ogni sabato?» «Annui, esatto. Ma perché?» Comincia a sembrarmi una lezione di catechismo. «Comunque, digiuno perché qualche anno fa mi sono resa conto che non sarebbe stata una cattiva idea privarmi di qualcosa una volta ogni tanto. Chissà che cosa il futuro tiene in serbo per me o per te o per la specie umana. Possiamo anche provare a prepararci. E dal momento che per quanto mi riguarda i giorni della settimana si assomigliano tutti, ho pensato che il sabato poteva essere uguale agli altri». «Il tuo pane tostato si sta raffreddando di nuovo, ti avverto». «Non capisco, credo che tu stia scherzando. Per favore smettila con questa faccenda, non ne vale la pena». Andò nella piccola cucina e tornò con un cartone di succo d'arancia. «Non so che progetti tu abbia per oggi», disse riempiendomi il bicchiere. «Io devo starmene in strada e raccogliere denaro per una delle mie molte attività di beneficenza. Mi è stato assegnato l'angolo di Oxford Street con Regent Street, è il posto migliore per noi good workers, uno dei più redditizi, capirai perché. Se vuoi, puoi venire con me». «Per che cosa raccogli denaro?» «Per combattere la fame nel mondo, soprattutto in Africa. Ma chissà, forse potrai beneficiarne anche tu un giorno». «Bene», dissi pulendomi la bocca sporca di miele e di burro. «Verrò con te, forse non sarò di grande aiuto, ma mi piacerebbe. Ti avverto che sarà molto affollato e non particolarmente piacevole». «Ah, io sono abituato alle folle». «D'accordo, staremo a vedere. Forse troverai questo tipo di folla piuttosto opprimente». In effetti, lo era. Nello stesso momento in cui uscimmo dalla stazione della metropolitana tra Oxford Street e Regent Street, con i nostri manifesti sotto un braccio e le scatole per la colletta tra le mani, mi ritrovai sommerso, annaspante nel torrente di compratori che spingevano carichi di borse di plastica e di pacchi. Prima che potessi rendermene conto, fui travolto e quando mi guardai intorno, riuscii a vedere soltanto le alte vetrine dei grandi magazzini, scintillanti di luci e manichini e la marea di compratori che si snodava lungo la strada. Poi udii la voce di May e la vidi, ferma sull'angolo, che mi faceva segno ridendo. Mi ci volle un po' per raggiungerla. Fui costretto ad aggirare la marea, voltando le spalle ai grandi magazzini. E tu saresti abituato alle folle, disse May ridendo. Mi mostrò come appendere i manifesti alla ringhiera che separava il marciapiede dalla strada. Poi mi mise in mano la mia scatola per la colletta e disse: adesso vai, buona fortuna. Me ne stavo ai margini del fiume di folla, porgendo la mia scatola pieno di speranza, ma dopo un quarto d'ora nessuno si era ancora fermato per lasciarci cadere dentro qualcosa e cominciai a domandarmi se almeno mi vedevano. Arretrai deluso verso la ringhiera e guardai May. Era evidente che era pratica del lavoro. Le sue abituali maniere incerte e quasi timorose erano scomparse. La voce era diventata alta e autorevole. Individuava qualcuno nella folla, ne attirava l'attenzione, avanzava di un passo e tirava fuori la scatola. Quello o quella ci lasciava invariabilmente cadere dentro qualcosa. Tornai al mio posto per sperimentare la sua tecnica e ben presto la gente cominciò a depositare monete anche nella mia scatola. Un paio d'ore dopo, con la scatola mezza piena, tornai faticosamente al fianco di May e mi sedetti usando la scatola come seggiolino. «Già stanco», disse May. Con un sospiro le chiesi se potevamo andare da qualche parte a bere un caffè. «No», disse lei, «abbiamo un lavoro da fare». «Dimmi una cosa, senza dubbio occupi una posizione elevata nella gerarchia dei good workers. Dovresti decidere dove inviare gli elicotteri e cose del genere, non è vero? Di sicuro non sei obbligata a fare questo tipo di manovalanza che dovrebbe essere riservata ai novellini». «Mi piace», disse lei, «mi sembra che sia utile». Si chinò a guardarmi e sorrise, un sorriso ironico, gentile, che addolcì i lineamenti severi del suo viso. «Sai», le dissi, «era esattamente così che guardavi quando ti ho incontrata per la prima volta. Ti ricordi? Io ti guardavo dal basso in alto, proprio come adesso». «Tu dovevi guardare chiunque dal basso in alto a quell'epoca», disse porgendo la scatola a una donna con un cappello rosso. «Ma ti ricordi?» dissi. «Sì, certo, fu a Lovra Station, non è vero?» Era arrivata con il Frontier Mail. Mio padre, Tridib e io eravamo andati a prenderla. Mentre andavamo a Ovra, io ero molto preoccupato. Come l'avremmo riconosciuta? Cominciai a tormentare Tridib. Non sai neppure com'è diventata. Non la vedi da quando era una bambina piccola. Ma Tridib non sembrava preoccupato. La riconoscerò in qualche modo, mi aveva risposto. Aspetta e vedrai. Io invece mi preoccupavo, non sapevo che si erano scambiati le fotografie. Ero segretamente convinto che sarei stato io il primo a riconoscerla. E ciò perché avevo elaborato una teoria sul suo nome. Dapprima il suo nome mi era sembrato strano, mi ero chiesto perché le fosse stato dato il nome di un mese. Poi avevo letto da qualche parte che i ranuncoli inglesi fioriscono in maggio. Ovvia la mia conclusione. Era stata chiamata May perché assomigliava a un ranuncolo. Ero sicuro che l'avrei riconosciuta per primo. Ero la sola persona che sapeva che cosa cercare. Eravamo in attesa sulla banchina quando il Frontier Mail arrivò sbuffando. Un'immensa folla si rovesciò fuori riversandosi sulla banchina. Restammo in attesa per circa mezz'ora, ma non c'era traccia di lei. Tridib era più pallido adesso, cominciava a mordicchiarsi le unghie. Io ero vicino alle lacrime. Tutto andò esattamente come avevo previsto. Fui il primo a vederla. Aspettava pazientemente in piedi vicino al chiosco del tè con la valigia tra le gambe. Ero strabiliato. Non assomigliava neppure lontanamente a nessuna delle cose che mi aspettavo. Vide che la fissavo e mi fece un segno imbarazzato. Allora la notò anche mio padre e le fece un cenno di risposta. Prese la valigia e corse verso di noi. La depose per terra e strinse la mano a mio padre, poi mi guardò da quella che mi sembrava una grande altezza e mi scompigliò i capelli sorridendo. I suoi occhi blu luccicavano come acqua mossa da una brezza leggera. Avevo superato la delusione. Non mi importava che non somigliasse affatto a un ranuncolo. Per me era abbastanza esotica. Alzando gli occhi, guardò qualcosa al di sopra della mia testa e indietreggiò. Capii che aveva visto Tridib, perciò mi girai perché volevo guardarla in faccia mentre lo salutava. Dapprima non lo riconobbe. Infatti lo salutò in modo vago e impersonale, come se si fosse resa conto che era con noi e lo salutasse per educazione. Poi il sorriso svanì e i suoi occhi si spalancarono. Puntò una mano verso di lui e disse: Tu non sei. Mi spostai di lato per poterli vedere meglio tutti e due. Tridib annuiva timidamente. Ero sicuro che stava cercando di sorridere. Non potevo biasimarlo. Quel momento sembrava così spaventosamente serio che al suo posto, senza dubbio, non avrei saputo sorridere. Ancora oggi riesco a vedere ciò che fece May subito dopo, come se si trattasse di un film che gira nella mia testa al rallentatore. Ricordo che il rumore e l'animazione della banchina svanirono. Ricordo l'espressione boccheggiante di un uomo in piedi accanto al chiosco del tè. Ricordo persino gli occhi di mio padre che si spalancavano increduli. May si avvicinò a Tridib e lo baciò su entrambe le guance. Da ogni angolo della banchina proruppe una valanga di fischi. Un coro di voci gridò: «Ancora! Ancora!» Gli occhiali di Tridib si appannarono ed ebbi l'impressione che stesse per esplodere per l'imbarazzo. «Ah, mi dispiace», disse May, era arrossita. «Ovviamente non è la cosa giusta da fare qui». «No, no», balbettò Tridib. «Molte grazie». «Che cosa state guardando?» sbottò mio padre, agitando le mani verso la gente che si era raccolta intorno a noi. Poi prese la valigia di May e ci guidò fuori dalla stazione. Sulla strada di casa, Tridib ci raccontò di quando, molto tempo prima, a Londra, Mrs. Price lo aveva chiamato in casa una mattina mentre lui era seduto in giardino e gli aveva detto di andare in salotto a dare un'occhiata a May. Lui si era avvicinato con molta emozione alla culla e aveva guardato dentro. Quando l'aveva vista, gli si erano drizzati i capelli, se l'era quasi fatta addosso. Era corso fuori dalla stanza urlando. Si è trasformata in un insetto, la sua faccia è tutta nera e lucida e la bocca è diventata un lungo muso nero come quello di un maiale. Più tardi gli avevano spiegato, ridendo, che era solo una maschera antigas. Una maschera anticas da bambino per proteggerla se i tedeschi avessero sganciato delle bombe a gas. Tuttavia, non erano riusciti a convincerlo fino a che non gliel'avevano tolta e gli avevano mostrato il suo viso rosa, morbido, per nulla alterato. Guardai May di sottecchi e mi sentii rincuorato vedendo che rideva. May, però, non ricordava la storia di Tridib. Era troppo eccitata per ascoltarlo con attenzione. Fece una smorfia alla marea di consumatori che ci passavano accanto e disse: «Per oggi abbiamo fatto abbastanza. Credo che per ora possiamo lasciare queste anime dannate a sguazzare nel fango del loro autocompiacimento. Vieni, ti porterò in un posticino dietro l'angolo dove potrai prendere un caffè. Vuoi dire che interromperai il tuo digiuno?» dissi. «Sono seriamente tentata, ma cercherò di resistere ancora un po'.» Riarrotolammo i nostri manifesti e affrontammo il flusso frettoloso della folla. Finalmente riuscimmo a raggiungere una stradina dietro Regent Street e May mi condusse in un bar che dietro una vetrina appannata esponeva piatti di insalata, gamberi e salame. Dentro c'era odore di pane e maionese. Era solo una piccola stanza stretta con un bancone da una parte, ma sembrava più grande perché la parte più lontana era un immenso specchio al quale era fissato un piano d'appoggio poco profondo. May scovò un paio di alti sgabelli che trascinammo fino al ripiano all'altro lato della stanza. Poi io andai al banco per scegliere un panino e ordinare un caffè. Quando tornai indietro, May stava ridendo sommessamente guardando nello specchio. «Cos'è successo?» dissi. Scosse la testa. «Stavo pensando a quell'assurda storia su di me con indosso la maschera antigas quando avevo solo pochi mesi.» Non aveva sentito Tridib mentre la raccontava, ma aveva riso comunque. Aveva riso perché le si era finalmente allargato il cuore per il sollievo. Aveva avuto paura tutto il giorno sul treno. Per la verità, aveva avuto paura da quando era arrivata a Delhi. Non ricordava perché, non c'era alcun motivo. Ricordava tuttavia la sua paura, il modo in cui si era chiusa a chiave nella sua stanza d'albergo, come quando da bambina era rimasta sola nella zona profonda di una piscina. Era spaventata perché era sola, perché non sapeva cosa fare. Una donna senza una mano le aveva chiesto l'elemosina quella mattina e lei era rimasta immobile, incerta sul da farsi. Tutto quel che poteva fare era darle del denaro, il che significava non fare assolutamente nulla, un puro gesto di impotenza. Non era abituata a sentirsi impotente, era abituata ad agire, era sempre stata così. Le era sembrata una buona idea andare prima a Delhi e poi ad Agra. Voleva far capire a Tridib che non era venuta in India solo in seguito alle sue sollecitazioni, come invece era stato. Ma una volta arrivata, non riusciva a decidersi a partire per Agra. Si era chiusa a chiave nella sua stanza d'albergo a Delhi e si era sdraiata sul letto, domandandosi perché era venuta. Naturalmente non c'era una ragione, nessuna ragione precisa, se non la curiosità. Curiosità per ciò che esisteva al di là del West Hampstead, una curiosità che aveva finito per focalizzarsi interamente su quell'uomo che non aveva mai visto prima. Tuttavia, distesa su quel letto d'albergo, piena di spavento, la curiosità non le sembrava più una ragione sufficiente per fare 8.000 chilometri. Non sembrava più una ragione sufficiente per nulla. Cercava di spiegare a se stessa l'origine della sua curiosità, ma le sfuggiva. Non la vedeva più, si era dileguata. Al suo posto c'erano le fantasie su Tridib. Cercava di immaginarlo alla stazione di Calcutta, ma non aveva idea di come fosse la stazione. Immaginava una versione più affollata della stazione di Paddington, a Londra, e lo vedeva in attesa accanto all'edicola. Vedeva se stessa che camminava verso di lui, gli tendeva una mano e molto correttamente gli diceva: «Come stai?» Lui però non rispondeva. Accennava un sorriso guardandola con occhi luminosi, penetranti. Era esattamente come nella fotografia che le aveva mandato, intenso, saturnino, molto più di uno stravagante. Quell'immagine non fece che accrescere la sua paura. Non intendeva incontrare un uomo come quello da sola, in uno strano paese. Era stato allora che aveva spedito un telegramma a mio padre pregandolo di andare a prenderla alla stazione. Infine, quando lo vide e poté osservarlo al di sopra della mia testa, le apparve del tutto diverso dalla fotografia. Aveva l'aria timida, assurdamente giovane e in un certo senso molto rassicurante, anche un po' buffo, perché gli occhi erano straordinariamente ingranditi da quei suoi occhiali e lui continuava a sbattere le palpebre in un modo ansioso e imbarazzato. Non aveva potuto fare a meno di buttargli le braccia al collo. Era puro sollievo. Finalmente sapeva perché era venuta ed era felice. Non aveva nulla a che fare con la curiosità. Le venne assegnata la stanza degli ospiti, una camera ampia, ariosa, che dava sul giardino. Mi ci intrufolavo ogni volta che potevo. Mi sedevo sul letto e la guardavo mentre scriveva le sue lettere, suonava il flauto, si spazzolava i capelli. Adoravo il suo odore, odore di shampoo e di sapone e di qualcos'altro, di sicuro non un profumo. Detestavo i profumi, qualcosa di fresco e leggero. Mi allungai verso di lei, strinsi fra le dita un lembo del suo pullover e lo annusai. Si tirò indietro sgomenta. «Che cos'è questa novità?» chiese. «Che cos'hai in mente?» Mi domandavo se hai sempre lo stesso odore. «È così?» «Sì, sì, sì, che cos'è questo odore?» dissi. Annusò il pullover e fece una smorfia. «Ma sudore? Sporco, no! Qualcos'altro?» «Va bene, confesso», disse ridendo. «È acqua di lavanda». Anni dopo, nella mia adolescenza, provavo vergogna, una vergogna terribile, per averla fissata in quel modo, annusandola, toccando i suoi vestiti di nascosto. Mi sentivo in colpa ripensando a come mi ero comportato e mi dibattevo alla ricerca di una giustificazione ragionevole. «Non ci badava», mi dicevo. Probabilmente apprezzava le mie attenzioni. Forse non se ne accorgeva neppure. Dopotutto le dovevo sembrare un piccolo marziano. Poi ero di nuovo assalito dal senso di vergogna, perché sapevo che non era così. La verità era che lei era gentile. Così gentile che non si era sottratta all'immagine di sé che le rimandavano i miei occhi.